Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. De Bruyne prova a mettere dentro, palo! E poi arriva il gol del 2-0 del City con Iheanacho. Torneranno i cinema all'aperto e i riti dell'estate, le gonne molto corte. Tornerà Fellini e dopo un giorno farà un film soltanto per noi. La mette dentro ancora Higuain! Vabbè, ma così è illegale veramente! Così è veramente illegale! Così è veramente illegale! Quello che resta del sole. Milik fa il movimento, palla per Hamsik! Hamsik! Avanti il Napoli! 1-0, Marek Hamsik! Quello che resta da dire, lo diremo domattina. Ultima staccata per Daniel Pedrosa, tutti in piedi sul muretto. Daniel Pedrosa c'è! Pedrosa c'è e vince! Pedrosa c'è, torna a vincere davanti a un eccellentissimo Valentino Rossi, a un ottimo Jorge Lorenzo in terza posizione. Quello che resta del sole, te lo porto a casa. Cross arriva per Perizza che la gira e l'Udinese trova il gol del vantaggio con Stipe Perizza, 1-0. Quello che andare verticalmente, c'è la deviazione da parte di Aquilani, pallone che sta arrivando nella zona di Cardi, nella zona di Cardi che non perdona, al minuto 91 la cambia lui con la doppietta personale, con l'istinto del bomber. Nella zona di Cardi, bravissimo Giorgio Luca che ci ha fornito questa spremuta di tutto quello che è successo in questo weekend meraviglioso. 800 24 00 24, Paolo Corleone in regia, Alvise Fazzone in redazione. Pardo, eccolo nella zona di Cardi. Sì, ma sento malissimo, sento malissimo. Dove stai? Dove sei? Dove sei? Arresta, eh? Senti malissimo, male. Va bene, ok, proviamo a riagganciarci. Intanto, insomma, abbiamo sentito una spremuta di tutto quello che è successo nel weekend con l'Inter nel segno di Icardi che trova la vittoria, con il Milan che trova in casa con l'Udinese un sacco di polemiche, con Valentino Rossi che arriva secondo a Misano in un gran premio molto bello, peraltro molto bello, ma che non cambia granché nella geografia della corsa verso il titolo. Questo quanto in parte di quanto abbiamo visto nel weekend. Poi abbiamo visto Higuain che segna come una macchina, poi abbiamo visto che il Napoli non soffre più di tanto l'assenza di Higuain e va a vincere a Palermo 3-0. Come da tradizione. L'altra volta cambio di allenatore, Novellino alla guida del Palermo, il Napoli vinse 1-0, questa volta ha vinto 3-0, e comunque il tassametro corre per tutte quelle che vogliono inseguire la Juventus. Pierluigi, sei? Sì, ci sono, ma sì, il tassametro corre, la Juve mi sembra che abbia mostrato ancora una volta di essere la squadra da battere. Il pericolo, forse, come ricorda Allegri, l'unico pericolo possibile è la tentazione di poter pensare che sia tutto troppo facile. Sì, però Pirino mostruoso, 10 minuti 2-0, doppietta di Higuain, no, è un segno. Ma no, è la squadra più forte di tutte, quindi è la squadra più forte di tutte, ulteriormente rafforzata rispetto all'anno scorso, quindi diciamo che la logica va pienamente in questa direzione. Poi la stagione ovviamente è lunga, il campionato è lungo, come dicono quelli bravi, quindi Allegri sta bene a tenere una grande attenzione complessiva, perché sarà una maratona, non sono in 100 metri. Ma la Juve è sicuramente la più forte di tutte e il Napoli è certamente in questo momento la seconda forza del campionato oggi. Poi magari tra un mese le cose cambieranno, ma credo che sia abbastanza evidente, perché la Roma resta il fatto, Pier, che se sei d'accordo, il tema del lunedì calcistico riguarda Milano, con l'Inter che va a vincere a Pescara, campo non semplice, con il Milan che perde in casa con l'Udinese, e questi sono due fatti. Sono due fatti. L'Inter fino a 20 minuti dalla fine, a 15 minuti dalla fine, rischiava di essere nella parte bassissima della classifica. Ha vinto con la forza. È stato il weekend dei grandi attaccanti, Sì. È stato il weekend anche a Tiki-Taka stasera. Partiremo da lì, perché insomma è stato un weekend che dopo anni di falso 9. Chi c'è a Tiki-Taka? C'è Trezeguet, c'è Bedinelli, c'è Immobile. Abbiamo un sacco di sorprese. C'è un'intervista a Hamilton. Una cosa con Gallinari e Donnarumma, c'è Dan Peterson, Crosetta, un sacco di gente. Detto questo, collegamento da Kiev, è stato il weekend dei grandi attaccanti, è stato il weekend dei bomber, nel senso proprio tradizionale della vita da bomber, tra l'altro che è un'espressione che va molto di moda oggi, dopo anni di falso 9, dopo anni di attacchi. Bravo. Diversi, no? Che sembravano poter prescindere di falso 9, di segmentari, eccetera. Poi ci sono Balotelli, del quale parleremo nei prossimi giorni. Doppietta con il Nizza, si ricandida anche lui come grande attaccante. Però hai ragione, Pier, è stato il weekend degli attaccanti veri. Adesso basta falso 9, basta collettivo, gioco di squadra. Adesso segnano quelli che sono deputati a farlo. 800240024 il numero verde. Poi c'è un altro argomento che mi stuzzica parecchio e arriva dai tweet, dai social network, con Albertini che dice: io non sono interista, con Costa Curta che dice, a proposito di Milan naturalmente, non si azzardino nemmeno a chiamarmi. Il Milan è in una situazione difficile, ne parliamo dopo. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Viel. Tutti convocati. Pardo, hai convocato a Tiki-Taka di questa sera Beppe Iachini? No, non ho convocato, ma se vuol venire lo convoco, mancherebbe altro. Che fai stasera? Dove sei? Ciao. Dove stai? Geolocalizzati. Ciao Beppe. Ciao. Ciao, vuoi andare a Tiki-Taka? Quando mi ospiterà andrò. Quando ti ospiterà andrai? Pardo? Sì. Quando vuoi, pure oggi, guarda, noi siamo. Io non posso fare lo stalker con tutta la serie A cosa che ci ha fatto. No, fai lo stalker se è tua abitudine. Mi perdo qualcuno. E stasera eravamo abbastanza sereni, abbiamo tanta gente, ma se vuoi venire stasera c'è posto, se no lunedì prossimo. Quando vuoi, mi avvisi prima. Va bene, mister. Intanto celebriamo la vittoria di San Siro. Intanto celebriamo la vittoria di San Siro, che ha fatto saltare il banco. Ma diciamo che è stata una partita importante da parte dell'Udinese, fatta con un'organizzazione, con mentalità giusta. Siamo andati lì sapendo che il Milan di Montella era molto organizzato, erano molto bravi ad alzare i terzini, portare gli esterni dentro il campo con una qualità, con uno contro uno, quindi dovevamo essere molto compatti, stretti tra le linee, non concedere, rompere le zone di transizione, occuparle bene e nello stesso tempo però senza mai rinunciare ad andare a far gol, perché poi se non è questa mentalità, prima o poi il gol lo puoi prendere. Invece noi ci siamo sempre riproposti in maniera giusta, sia nel primo tempo che nel secondo, credendo sempre di poter andare anche noi a poter sbloccare la partita. Nel primo tempo abbiamo sbagliato negli ultimi metri qualcosa di troppo e dovevamo far meglio, però poi è arrivato il gol nel finale, va bene lo stesso, ma mi è piaciuta la squadra, i ragazzi per come l'hanno interpretata e per quello che ci eravamo detti, sono riusciti a portare in campo testa e concentrazione. Testa e cuore, testa e cuore. Sì. Testa e cuore. No, sentendoti parlare viene in mente un film degli anni 80 riguardo al Milan. Pardo, tu eri piccolo, però sotto il vestito niente, te lo ricordi? Sì, era un film. Beh, ci sarebbe anche i miei primi 40 anni pensando. Dimenticabile, a dimenticabile finché no, vuoi. Io vorrei capire proprio questo, cioè vorrei capire come si affronta da un po' di spionaggio industriale, al di là del fatto che il Milan poi poteva anche non perdere, sicuramente poi l'episodio è stato decisivo, ma come si affronta il Milan? Cioè qual è in questo momento, dal punto di vista di un allenatore avversario, la chiave per mettere in difficoltà i rossoneri? Ma la chiave, diciamo che il Milan è una squadra che però ha dietro lavoro, si vede che Montella ha lavorato sul piano del gioco, dei movimenti, che ha delle idee di gioco importanti, perché non è facile affrontarla, perché ripeto, alzano molto i terzini sopra la linea di centrocampo, con gli interni di centrocampo vanno in rotazione bassa e portano davanti tanti uomini con gli esterni che tagliano il campo, quindi dentro le linee c'è densità, c'è superiorità numerica in diverse zone del campo e quindi devi essere bravo nelle chiusure del passaggio, nella zona di transizione, farla bene, poi andare anche nello stesso tempo a scivolare con tempi giusti sia con i centrocampisti che con la linea difensiva. Noi ci eravamo preparati in questo senso bene, ma è chiaro che poi questi sono anche giocatori che in un fazzoletto riescono a trovarsi la giocata o in tattica individuale andarsi a creare una superiorità numerica che può essere decisiva nella partita. Però ecco, ripeto, noi siamo stati quasi perfetti perché abbiamo concesso pochissimo, quasi nulla, qualche tiro dalla distanza, e nello stesso tempo però ripeto, penso che il fatto di andare soprattutto poi, tornando alla tua domanda, andare ad attaccare con due attaccanti più l'arrivo dei centrocampisti da dietro, penso che sia stato importante, perché ovviamente tenevi sempre in apprensione anche la linea difensiva del Milan. Questa è stata una chiave tattica importante, perché hai fatto lavorare molto anche i loro centrali in ampiezza e in profondità, e i cambi del secondo tempo, inserendo due punte fresche, volevano ancora di più andare a forzare questa situazione. Ecco. Mister, i nostri ascoltatori sono tremendi. C'è chi mi scrive via WhatsApp, potete chiedere a Chinis anche adesso per radio porto il cappellino. Non ti chiedo una risposta. No, perché ti no, faccio perché invece una domanda: dove vuoi arrivare con quest'Udinese? Ma dove vuoi arrivare? Noi viviamo la giornata per giornata. La nostra è una squadra, è una rosa composta da tanti giovani, e nello studio del programma c'è quello di ripartire da zero. Ecco, hanno terminato, diciamo, tra virgolette, la loro avventura con l'Udinese, giocatori importanti che hanno fatto la storia, quindi di Natale dell'Udinese, quindi da quest'anno si riparte con l'anno zero. L'obiettivo è quello di andare a valorizzare il maggior numero di giocatori possibile, tutta la rosa, portarla a un aumento di valore, di un aumento di rendimento, un aumento di qualità, di conoscenze del campionato. Beppe, italiano. Posso farti una domanda un po' scomoda? Quanto conta avere comunque un proprietario del club che è anche proprietario di un club inglese, che comunque ha interessi in tutto il panorama calcistico europeo? Cioè, a questo ci pensi oppure no? No, l'Udinese è una società sotto questo aspetto molto organizzata, ha una rete di osservatori, ha un modo di lavorare già da diversi anni conclamato, quindi gli allenatori che passano ovviamente devono andare, e che loro scelgono anche su una valutazione non fatta tanto per, ma fatta su valutazioni appropriate, mira proprio a dare un'organizzazione di gioco alle squadre, nello stesso tempo a lavorare individualmente su questi talenti, questi tanti giocatori che arrivano da tutte le parti del mondo, cercare di valorizzarli, di farli inserire nel calcio italiano e dargli e dare e poi una avere da loro una crescita, una valutazione, una supervalutazione anche a livello economico. Certo, questo è chiaro Pardo, no? È una situazione molto strana, molto sui generis, molto sì, è strana, ma non è neanche... vorrei dire attuale. Appunto, non è nemmeno poi così così tanto scalpore, magari 20 anni fa, 30 anni fa l'avrebbe trovata insostenibile. Oggi una situazione, anzi, che può dare addirittura dei vantaggi, delle opportunità. Zamparini, lo senti, mister? Palermo non è questo bellissimo, eh? Volevo chiederglielo io, ma grazie per avermi anticipato. Non ho avuto la possibilità di sentirlo, però vabbè, insomma, abbiamo passato degli anni comunque belli a Palermo, cioè, Beppe, non hai avuto la possibilità di sentirlo. T'ha chiamato, quindi... spegni il cellulare, giusto? Come? No, dicevo, non ho avuto la possibilità di sentirlo. T'ha chiamato, hai spento il cellulare? No. Ripeto, insomma, si è vissuto una bella pagina. Aver fatto la dura, essere stato l'allenatore che ha durato più anni possibile, più tempo possibile, conoscendo un po' quello che è stato un po' l'escursus della storia del presidente, insomma, non può far altro che farmi comunque piacere, perché vuol dire che, insomma, quando sono stato lì almeno è stato apprezzato il lavoro fatto e svolto, altrimenti non sarei durato così tanto, avrei battuto tutti questi record. No, quindi non fai come Pardo, che quando lo chiamo mi appende. No. Normalmente Pardo, io quando lo chiamo, quando lo chiamo mi appende. Come finisce Icardi Higuain domenica? Come, scusa? Come finisce Icardi Higuain domenica, che sarà Inter-Juve? È una bella lotta, insomma. È chiaro che Higuain è già un giocatore fatto, formato al 100%, insomma, è un giocatore che ha acquisito quella consapevolezza dei propri mezzi. In toto è un giocatore da 30 gol al campionato, è diventato un giocatore molto molto importante che fa spostare l'ago della bilancia di qualsiasi squadra. Icardi è un giocatore seppur molto giovane, ma che già sta dimostrando le sue qualità. Io penso che poi alla fine tra Higuain e Icardi possa prevalere la squadra. Oggi la Juve è più squadra rispetto all'Inter, è più pronta rispetto all'Inter, sotto tutti gli aspetti, sotto l'aspetto della conoscenza, dell'organizzazione, della mentalità che ha potuto costruire in questi anni. Quindi sicuramente Icardi magari tra virgolette potrà fare un po' più di fatica in virtù che ancora è in un contesto di squadra che deve formarsi e deve ovviamente avere un suo percorso, cosa che la Juve ha già fatto e già consolidato. Mister, per chiudere ti giro due messaggi che mi arrivano. Bravo Iachini a mettere De Paul a uomo su Montolivo, scrive un ascoltatore di Udine. Abate e De Sciglio sono i responsabili della sconfitta del Milan. Dammi una valutazione su queste due considerazioni. Ma quella di De Paul su Montolivo era sicuramente stata una scelta dettata dall'importanza di questo giocatore per il Milan. Se lasci giocare Montolivo è un giocatore che ti determina le verticalizzazioni, le profondità della squadra, ti fa muovere, insomma, la squadra del Milan con più efficacia, con verticalizzazioni e anche qualità di gioco. Quindi è normale che lì dovevamo andare a chiudere tutte le traiettorie possibili, quindi la scelta di mettere De Paul in quella zona non è casuale. Nello stesso tempo poi dovevamo però essere bravi anche ad attaccare quelle zone, e De Paul lo ha fatto abbastanza bene, anche se in certe circostanze potevamo essere più bravi, ripeto, nell'ultimo passaggio, nella conclusione. Per quanto riguarda Abate e De Sciglio hanno fatto quello che dovevano, ripeto, i terzini del Milan spingono molto, vengono molto su e sono molto pericolosi, perché poi ti arrivano anche a ridosso dell'area di rigore con buona qualità, mettendo palloni dentro importanti. È chiaro che poi però nel corso della partita non è che possono tornare tutte le volte con tempi giusti, ed è lì che noi abbiamo cercato anche... Ti avete fatto male al Milan. Sotto certi aspetti di sfruttare un po' anche queste situazioni qui. Certo. Grazie Beppe, grazie mister. Prego. Grazie Beppe Iachini. Ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. 800240024, numero verde. Tutti convocati. Tra poco nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Totti! È 3-2, la Roma vince al 93esimo col gol del suo capitano che si toglie la maglia sotto la curva sud. 249 volte in Serie A, la Roma ha vinto all'ultimo secondo. Perché non finirà, non finirà mai. Perché non finirà, non finirà mai. La partita si vince in 11. Io quando sono entrato cercavo di dare il mio contributo, il massimo, come ho sempre fatto da 25 anni a sta parte, perciò poi sono riuscito a ribaltare la partita, ma tutta la squadra riuscirà a fare quello che volevamo inizialmente. È la prima volta che sinceramente ho avuto un po' di paura di sbagliare, perché coronare questa partita con un gol e un assist sarebbe stato l'ideale, giusto per quello che avevamo fatto il secondo tempo. Poi non potevo sbagliare sotto la curva e davanti al mio gruppo. Perché non finirà, non finirà mai. Avevi ragione tu a voler giocare un altro anno vedendoti ancora in queste condizioni. Ma è il campo quello che decide, che l'ultima parola aspetta al campo. Se io sto in queste condizioni e come ho detto prima la testa mi porta a fare questo, perché smetto? No, strano. Questo Francesco Totti, naturalmente. Io per puro caso sto vedendo sui monitor, sugli schermi, un montaggio televisivo del gol di Totti e della giornata di Valentino Rossi, di cui parleremo dopo le 15, 800 24 00 24, numero verde, tra lo champagne bevuto nello stivale, la corsa che ha fatto, eccetera. Sto vedendo Totti che segna quel gol su rigore, si toglie la maglia, tutto molto bello. Non sono d'accordo con chi scrive via WhatsApp Iachini, perché Beppe Iachini è stato nostro ospite, allenatore dell'Udinese prima della borsa, e non sono d'accordo con chi scrive: perché partecipate al campionato italiano, non avete un italiano in rosa, vergogna. L'Udinese ha giocatori eleggibili per il campionato italiano e quindi mi sembra questione di lana caprina. Pierluigi Pardo è collegato con noi. Massimo Caputi, responsabile delle pagine sportive del Messaggero, cosa hai scritto su Totti? Innanzitutto buon pomeriggio. Ciao Massimo. Ciao Luigi, cosa ho scritto? Ho scritto già, diciamo che si fa fatica a essere originali quando si parla di Totti, perché è stato detto tanto e io credo, alla luce anche di ieri, tanto ancora si dovrà scrivere e parlare di questo grande campione, un campione intramontabile che ha secondo me in questo momento una capacità che va anche oltre quella che è la sua classe, il suo modo di giocare, che insomma abbiamo ammirato anche ieri. Ha proprio lui riesce a rianimare in questo momento la Roma, e la Roma non solo intesa come squadra, ma io direi come tutto quello che gli gira intorno, come c'erano i tifosi. Ti capisco perfettamente. Lui è sempre stato un trasformatore di energia. Sì, e adesso lo è ancora di più. Adesso lo è ancora di più perché gli basta alzarsi dalla panchina per riscaldarsi, che già lo stadio, diciamo, subito si infiamma, c'è una vibrazione. E io credo che ieri si sia trattato di vibrazioni. Poi è chiaro che è stato un pomeriggio incredibile, perché basti pensare al nubifragio, al diluvio, sosta di un'ora e un quarto. Massimo, può essere un fattore positivo oppure un fattore di disturbo, no Pardo? Beh no, di disturbo no. Ma come no? Come no? Di disturbo faccio fatica. Io credo che Spalletti abbia dovere, interesse di pensare alla Roma del futuro, nel senso che chiaramente proprio per la grandezza di Totti, quando lui finirà, quando lui smetterà, ci sarà da dover elaborare un lutto sportivo, no? Di però, però intanto è lì e pesa. Però intanto è lì e io, insomma, io penso pesa. Che sì, stavo dicendo appunto che penso che lui sia veramente un giocatore in grado di rivitalizzare l'ambiente, di rappresentare come mai prima d'ora. Lo è sempre stato, ma adesso lo è ancora di più, quel totem, quell'icona, quel punto di riferimento che dà speranza ai tifosi nei momenti di difficoltà. Insomma, quello che è successo negli ultimi 4-5 mesi era abbastanza impronosticabile, nel senso che Totti si sta regalando l'ennesimo colpo di teatro della sua carriera. La longevità di questo giocatore sta diventando una delle categorie di eccellenza assolute di questo, sì, di questo fuoriclasse. Non soltanto i gol che ha fatto, una marea, il talento enorme, ma anche veramente questa longevità che 3-4 anni fa era impensabile. Ma certo, anche banalmente 5-6 mesi fa io forse non avrei buttato 10 euro sul fatto che Totti avrebbe portato la Roma al terzo posto e che avrebbe avuto questo potere di rivitalizzarla continuamente. Certo, certo. Però Pierluigi, io riprendo le parole di Massimo Caputi: si alza Totti dalla panchina e senti una scarica di energia. Questo è un fattore positivo, però può essere anche un fattore condizionante. Massimo. Ma io credo che ieri ci sia stata proprio la messa a nudo dei limiti della Roma. Evidentemente questo mettere a nudo i limiti caratteriali di personalità della squadra può essere però, diciamo, anche la svolta, perché ormai cioè veramente questa squadra ha dimostrato di avere i limiti, li ha messi a nudo, li ha in qualche maniera esorcizzati proprio grazie al suo simbolo, al suo giocatore simbolo. E chissà che, cioè, io ci ho visto ieri in quella pomeriggio così particolare, è come una specie di sliding doors, no? Cioè, in fin dei conti è come se possa ripartire un nuovo campionato per la Roma. Ora, quindi, diciamo, c'è l'aspetto positivo e, come ho detto, c'è anche l'aspetto negativo di una squadra che comunque fatica ad andare da sola. Certo, ha bisogno di essere presa per mano, no? Certo, da questo giocatore. Certo. Dico anche, e vi rubo 20 secondi, che insomma viene da dire che Totti sia un po' l'Highlander del calcio italiano, ma che c'è anche un altro aspetto, secondo me, che viene fuori in questi ultimi mesi e in questi ultimi anni. E cioè, noi abbiamo sempre pensato a Totti come il pupone, il classico simbolo di una romanità un po' scanzonata, magari che si accontentava. Io credo che Totti ci stia dando invece un'altra lezione, e cioè ci stia dando la lezione di un uomo fuori classe che, con la serietà, gli allenamenti, un rigore, io credo, di vita anche alimentare e in tutti i sensi, cioè riesce a essere ancora integro, perché guardate che questo è un giocatore che a 40 anni si sta allenando come più di prima. Certo, verissimo. Che è il segreto di Pulcinella per tutti i grandi giocatori che arrivano a quell'età. Questo lo trovo giustissimo e molto acuto, perché poi, insomma, in realtà va veramente a cozzare con lo stereotipo, no, del tottismo, e appunto, cioè, di un ragazzo semplice, spontaneo, ma che magari non aveva questa eccellenza di professionalità. In realtà ce l'ha sempre avuta, e in questo finale di carriera sta facendo le cose migliori. Poi un'altra cosa che devo dire mi piace moltissimo è il suo assoluto sprezzo dell'immagine. Cioè, lui se ne sta ampiamente fregando di tutto quello che i consulenti d'immagine, gli esperti di marketing gli avrebbero consigliato. Lo scorso anno ha rischiato anche sicuramente di finire male la sua carriera con un litigio, con una discussione francamente non bella, no? con la società e anche con lo stesso Spalletti. Sono stati dei passaggi non belli, ma essenzialmente a lui non gliene frega niente di uscire la perfezione del marketing, con la festa, con le paillette. A lui gli interessa di giocare a pallone finché ne avrà voglia, e francamente mi sembra ancora molto utile per questa squadra. Poi devo dire la verità che quando non gioca, visto che non ha giocato lungamente in questa stagione, non è mai un problema. Questa è un'ulteriore sottolineatura, cioè non è un giocatore che, tanto per essere chiari, ha fatto polemica per non essere stato impiegato contro il Porto dopo quello che aveva fatto per portare la Roma al terzo posto. Quindi, sottoscrivo parola per parola quello che dice il mio compagno di banco Massimo Caputo. ma infatti sono d'accordo anch'io, ed è giusto così. Era il debutto ieri di Totti. Totti non aveva giocato neanche un minuto nelle gare ufficiali di questa stagione, e credo che in questo c'è anche, come diceva Pierluigi, una chiave di lettura positiva, il suo fatto, il fatto di non far pesare le panchine di questo suo ruolo. E quindi, insomma, tanto di cappello. Io credo che chi nel corso degli anni in qualche maniera ha osteggiato, ha criticato per tanti motivi Francesco Totti, credo che Francesco Totti, al di là di essere un patrimonio indelebile della Roma e della città di Roma, io credo che sia veramente un valore del calcio italiano in assoluto, uno dei più grandi di tutti i tempi, e non mi vergogno a dirlo. E fai bene. Grazie Massimo. Grazie a voi. Ciao Massimo, ciao, Caputi. Ciao, ciao. Ci fermiamo per il traffico, torniamo subito dopo con Alessandro e Nicola. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Sento dell'irrealità qui in studio, sì, perché tutti noi abbiamo un'immagine di Albertini che è equilibrata, istituzionale. Cosa gli è successo a Demetrio? Scusami Billy, tu che lo conosci piuttosto bene, per pubblicare sta cosa. Ma credo sia rimasto scioccato un pochino dalle ultime scelte, e probabilmente però si accoda a tanti tifosi milanisti. Credo scioccato che... dalle ultime scelte perché vengono dall'Inter, direttore sportivo. Credo che un pochino sì. Beh, mi sembra abbastanza chiaro il messaggio di Demetrio. Ma scusami. Inequivocabile. Sì. Ma per quanto ti riguarda questa foto col punto interrogativo della leggenda, quindi si offenderanno tutte le altre, è chiaro, è ovvio. Sei stato contattato? No, assolutamente no, assolutamente no. Sì, avresti detto comunque assolutamente no? No, è che non ci provino neanche. Beh, mi sembra che la situazione al Milan tra ex milanisti, bandiere milaniste sia un po' così. Costa Curta ha detto ieri a Sky queste cose, Albertini ha pubblicato un post con un tazebao, io non sono interista, Fassone è il nuovo plenipotenziario del Milan in una sorta di interismo, e la parte milanista si ribella. Non so se sia una battaglia di retroguardia o qualcosa di vero, Pardo. È stato all'Inter, è un manager, è stato alla Juventus, al Napoli. È stato al Napoli, quindi francamente adesso non è che hanno preso Beppe Bergomi o certo, Riccardo Ferri, no? Certo. Ma come valuti tu queste prese di posizione? Mi sembra che ci sia molto movimento in questo momento, no? Sicuramente il Milan ha bisogno di recuperare un po' della sua milanisticità. Del suo milanismo, e le leggende si fanno sentire secondo me in maniera assolutamente legittima. Non è che sia una captatio benevolenza nei confronti dei tifosi per aspirare a chissà quale carica, però si fanno sentire perché evidentemente sono tutte consapevoli che ci sia bisogno di recuperare quella vecchia guardia. Io sono d'accordo, per quel poco, quasi zero che conto, nel senso che il Milan deve recuperare una disciplina interna allo spogliatoio che si è persa. Vabbè, ma valuteranno i nuovi proprietari, no? Ah, certo che valuteranno i nuovi proprietari, però insomma nel calcio il valore della tradizione è un valore, non sono belle parole, cioè presentarsi con delle figure che sì, possano chiaro. Far rifiorire il rapporto con i tifosi. Certamente, però non dimentichiamo che Berlusconi, pronti via, fece fuori Ribera. Non dimentichiamo sì. che Maldini è stato allontanato dal Milan. Giusto o sbagliato? Giusto o sbagliato, però sì. Adesso però spetta ai nuovi proprietari fare delle valutazioni, no? Rivera era un'icona ed è ancora un'icona di un calciatore meraviglioso, certo. Una persona intelligente ma abbastanza isolata. Qui siamo di fronte a 25 anni di glorie, di successi, insomma c'è da andare a pescare, secondo me. Poi i nomi li abbiamo fatti anche l'altro giorno, sono tanti, si può identificare quello più giusto, si può capire per che tipo di competenze, ma oggi insomma quella generazione lì di calciatori ha fatto storia, secondo me è un valore. Io non c'è alcun dubbio. Fossi il Milan dei cinesi, ripartirei da lì. Non c'è alcun dubbio. O quantomeno tatticamente andrei a identificare un personaggio che possa essere il garante di un certo tipo di legame con una storia che stava a stare vicenda. Cioè, non è una captatio benevolenze così fatta. tanto per fare, secondo me è un ha un valore sportivo. Non c'è, non c'è alcun dubbio, però non posso dimenticare Berlusconi che fece fuori Rivera, non posso dimenticare il trattamento riservato a Paolo Maldini da parte della ormai ex proprietà, e quindi stiamo a vedere cosa la proprietà cinese e Fassone, che è un manager, deciderà per quanto riguarda le bandiere del Milan che fu. Alessandro. Sì, pronto. Dica. Pronto. Volevo spendere 30 secondi per celebrare Totti, che da fermo ha risolto una partita, perché due assist praticamente senza cuore e il gol, non gli si può dar atto della capacità tecnica della persona e anche di una capacità morale, perché è migliorato rispetto agli ultimi tempi quando era un po' più frizzantino. Di contro non mi nascondo che da tifoso sampdoriano dico che è rigore, quantomeno era rigorino, non dico regalato, era rigorino, comunque, sì, ecco, sì, era un po', non staremmo oggi a celebrare Totti se quel rigore non veniva dato. Bravissimo. Giusto? Alessandro, intervento di grande eleganza. Nicola. Sì, salve. Io negli ultimi 30 anni, io sono un tifoso della Juve, negli ultimi 30 anni vedo il calcio, al di là del fatto che mi piace, però parliamo di Maradona, parliamo di Platini, parliamo di Baggio, parliamo di Zatini. Adesso che finisce Totti, chiedo a voi, esperti del calcio, perché io dovrei vedere una partita, al di là degli altri campioni? Però questi vanno oltre, diciamo, quelli sì, che sono i classici. Ho capito, perché il calcio è calcio. Il calcio è calcio. Pardo, 30 secondi. Il ragazzino del Pescara, perché la vedi per vedere il calcio. E detto questo, cioè, fa ragione. È chiaro che con l'addio di Totti, così come gli addii che ci sono stati prima, siamo tutti più poveri. Non c'è dubbio che ci perdiamo qualcosa. Però, insomma, il calcio poi continuerà, ha una capacità di costruire nuove storie, di andare avanti, quindi... Da questo punto di vista non penso che esista una preoccupazione di questo genere, però in qualche modo si lega anche al discorso che abbiamo fatto sul Milan, cioè questo valore della memoria, che non deve diventare, come dice giustamente Carlo, il diritto divino di uno che è stato un grande calciatore a essere poi automaticamente un grande manager, non è questo, però insomma che sia un valore che in qualche modo ti lega, soprattutto quando c'è un'identità forte di una bandiera che è sempre stata nella stessa squadra. Questo, certo, mi sembra evidente. Certo, Pierluigi. Certo, e poi è vero, certo. Totti ha fatto due giocate da fermo, è vero. Vabbè. Ma perché Spalletti ha ragione quando, per esempio, nella conferenza prima dell'andata col Porto, sottolineava l'importanza di riempire la partita di Va bene, ho capito. Due giocate da fermo, due giocate che hanno risolto la partita, con tanti saluti a quelli che non gradiscono. Pierluigi, sentiamo domani alle 2. Adesso domani. Ci fermiamo per il giornale radio, torniamo con Valentino Rossi con altri temi. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. Convocati. Ultima staccata per Daniel Pedrosa, tutti in piedi sul muretto. Daniel Pedrosa c'è, Pedrosa c'è e vince. Pedrosa c'è, torna a vincere davanti a un eccellentissimo Valentino Rossi, a un ottimo Jorge Lorenzo in terza posizione. Ho visto che potevo approfittare di fare una bella gara, però dopo un po' dei primi giri non ero sicuro di poter arrivare sul podio. Però piano piano il mio ritmo è andato più rapido. Ovviamente ho fatto il massimo sforzo per cercare di approfittare questa opportunità. Ho ogni volta che vedevo che il mio vantaggio diventava più grande su Lorenzo Marquez, mi passava la fatica, no? E a un certo punto sinceramente ho pensato di farcela, poi ho visto spuntare sulla mia tabella questo nome, Pedrosa, e ho pensato, cazzo, proprio oggi deve andare così, che non potevo aspettare una settimana, che è Aragon la prossima, che è anche in casa. Ci ho provato, ma non c'è stato niente da fare, andava di più. Beh ragazzi, questa è la spremuta di quanto abbiamo visto ieri a Misano, gran premio bellissimo. De Vos, Roberto Ungaro, ciao. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Ciao, c'è già Francesco da Brescia in linea 800240024, ma prima dammi una lettura di questa corsa. Pedrosa, ho sentito Valentino Rossi, aspetta un attimo, Aragon magari vinci, quando non conta, io sono maligno e dico Pedrosa c'è. Sì, doveva essere l'ottavo vincitore diverso in 8 gare forse, per scrivere un record, ecco, perché Valentino ha fatto una gara strepitosa e sinceramente non avrei mai pensato a un Pedrosa. Valentino tra l'altro mi ha stupito perché quel passaggio subito a Lorenzo è l'unica carta che aveva da giocare per dargli quello schiaffo morale, infatti ha fermato la sua corsa perché Lorenzo se no aveva un passo che era difficile prenderlo, quindi Vale ha fatto veramente l'impossibile, però poi è arrivato lui che purtroppo vince solo una gara all'anno, quest'anno l'ha vinta nel momento sbagliato, perché questo è troppo forse un bravo ragazzo, poi lo chiederemo magari al suo team principal, ma gara strepitosa, bei sorpassi, a Misano non è facile, hanno inventato delle linee nuove, quasi dei sorpassi nuovi in posti inaspettati dove di solito non si passa in quella pista, il livello è veramente alto ed è bello vedere uno spettacolo del genere. Record di presenze, era tutto giallo, non oso pensare se avesse vinto Valentino sarebbe quasi stato come un mondiale. 43 punti e sono ancora tanti, però è quattro gare che Valentino sta davanti a Marquez, e Marquez ieri l'ho visto un po' infastidito e sì, potrebbe essere disturbato mentalmente da questa cosa, e questo potrebbe rovinare il suo comportamento da ragioniere che gli ha consentito di essere lì davanti fino adesso, perché è così. Poi lo chiediamo al suo team principal. Esattamente. Intanto Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi convocato. E volevo capire se, adesso perché io non avevo visto dalla tele bene che ero in circuito, se Pedrosa aveva le stesse gomme di Marquez e se Marquez ha tenuto un po' il braccino per tenere il suo... Allora, l'anteriore di Pedrosa era morbido, mentre invece gli altri non avevano quella gomma, quindi gli ha sicuramente fatto la differenza. Però ieri Pedrosa era in palla, vederlo guidare e vedere soprattutto la ciclistica di quella Honda nei cambi di direzione era una cosa impressionante. E noi abbiamo sempre detto che il livello della Honda era quello di Pedrosa, e infatti Marquez mette del suo, va oltre, perché la moto ha sempre avuto dei problemi, però oggi... Dopo quelle immagini bisogna dire che Honda è cresciuta parecchio e adesso ha compensato quel gap che aveva di ciclistica, perché quella moto lì era rapidissima, quelli che si chiamano in gergo piff puff, i cambi di direzione veloci nelle S. E quindi è vero, c'è la componente gomma, ma secondo me quella ha giocato non in modo rilevante, cioè ieri Dani era in palla come raramente è. L'ultima vittoria del 2015 è veramente troppo un bravo ragazzo, Carlo, perché Dani... Sì, lo so, i brevi ragazzi non vincono mai. Bravo, questo, i bravi ragazzi purtroppo non vincono mai. No, vorrei che tu rispondessi a questo messaggio. Ma perché l'exploit di Pedrosa, scrive un ascoltatore al 349-238-6666? Forse perché all'inizio del mondiale i capi hanno deciso che Dani doveva fare da maggiordomo a Marquez? No, non è così. Dani è un maggiordomo di natura. Purtroppo ha questo carattere, è mite nello scontro, nel duello, anche se ieri non ha confermato questa tesi, al braccino, nel confronto diretto, sportellate, carena contro carena, è un perdente in questo senso. Però ragazzi, ha vinto un mondiale nel CD5, uno nel 2,5, gli manca solo nella classe regina, sono 8 anni che è lì, se non ce l'ha fatta fino adesso viene da pensare mai ce la farà. Per come lui e per come lo conosciamo noi, addetti al settore, se lo meriterebbe un solo mondiale, magari, ma se lo meriterebbe, perché è stato veramente un onesto lavoratore del manubrio e gli manca solo quello. Quello che voglio dire è che io vorrei poi chiedere a Livio, Dani è il perfetto compagno di squadra di Marquez, allora Honda ha già firmato e l'ha confermato per questo motivo o perché crede in lui, perché può ancora? magari vincere un mondiale. A me viene in mente Schumacher con tutti i vari compagni di squadra che ha avuto. Schumacher aveva bisogno di un compagno di squadra che non rompesse i coglioni. E in quei casi sono loro che decidono, perché il benestare lo dà il numero uno del team. Certo. Ci sono dei piloti che non possono arrivare perché non lo vuole lui. Certo, certo. Questo sarebbe da capire. E io penso a Valentino Rossi e a Lorenzo, penso a Valentino Rossi e a Maverick Vinales l'anno prossimo. Certo. Sai, ci sono dei grandi piloti che gradiscono un compagno di squadra cazzuto, altri piloti che invece vogliono un compagno di squadra morbido, no? Certo, e comunque di scintille ne abbiamo già viste, perché ieri, dopo in conferenza tra Lorenzo e Valentino, c'è stata veramente una discussione molto accesa su quel sorpasso. La sentiamo? La sentiamo? La sentiamo? Maybe you don't crash, but I crash for sure. It's not true. Allora, what I have to say with him? What I have to say with Marquez in Silverstone? Well, it's your opinion. When you overtake 10 times like this. You can't. Why you say like this? It's not true. See the video of the past. Okay, also you overtake. But always aggressive. But it's my opinion. Respect my opinion. Respect my opinion. Also you overtake always aggressive. When? Why you say me? When? But respect my opinion. In this moment, I don't remember. But if you check the race, if you check the tape, but 100 times. Don't laugh. Also to me. Don't laugh. Respect my opinion. This is my opinion. Race direction will have another opinion. I tried to check the image. I didn't check the image. I will see. But for me, if I don't put a straight the bike, I crash. I'm okay. Anyway, I'm not agree. Allora, scherzo Valentino Rossi, sì. Lorenzo, dimmi la tua. Allora, io dico questo, era nei limiti, cioè è stato un sorpasso aggressivo. Lorenzo dice, se io non avessi tirato sulla moto, io sarei caduto e forse saremmo caduti in due. Mm. Allora, sorpassi del genere se ne sono visti anche di peggio, molto di più. Valentino è dentro la regolarità, tant'è che non c'è stato nessun intervento. Quello che dico io è che Lorenzo non se lo aspettava così presto, perché quello è un sorpasso da ultimi giri della gara, mentre invece lui l'ha fatto all'inizio. E anche in un punto è veramente inaspettato, ha chiuso la linea, è andato verso la corda in un modo innaturale proprio per fare questa azione, questo intervento. Però era l'unica carta che aveva da giocare, perché altrimenti, ripeto, Lorenzo se ne sarebbe andato. Ha fatto il record della pista il sabato, aveva un passo strepitoso e quell'azione, Carlo, gli ha proprio dato uno schiaffo morale a Lorenzo, dal quale non si è più tirato su, ed è quello che gli ha consentito a Valentino di fare quella fuga di un secondo quasi. Pensava di avere messo il tesoro al sicuro e invece no. Quindi secondo te Valentino ha giocato d'azzardo? Ha giocato d'azzardo, ma strategicamente, questo che voglio dire, come manovra è comunque regolare, cioè non è una cosa da ammenda, certo, non è una cosa dove la donna doveva intervenire, dove esserci una punizione. Ci sono stati sorpassi ben peggiori, non puliti. Quindi Valentino, quello che mi viene da dire, hai visto come ha reagito, è proprio perché lui sapeva forse di averla fatta un po' aggressiva, però ripeto, è nei limiti della regolarità. Allora, io ho vari messaggi. Uno di questi messaggi è: Ungaro è il migliore, commenti sempre obiettivi. Uno dei pochi giornalisti italiani non azzerbinati a Rossi. Caffè pagato Valentino Rossi, sentiamolo. Beh, intanto devo dire che comunque arrivare davanti a un fuoriclasse come Marquez è una grandissima soddisfazione, ecco. E penso che sarà molto difficile recuperare 43 punti, ma comunque arrivargli davanti dà sempre gusto. Questo è Valentino Rossi, 800240024, numero verde per intervenire. Io lascio a Roberto Ungaro la palla per interrogare Livio Supo, team principal della Honda di Marquez e di Pedrosa. Ciao Livio. Ciao. Ascolta, quello che si chiedono tutti: perché vince solo una volta l'anno Dani? Cosa gli manca per essere, perché è la persona più amata nel paddock, noi che lo conosciamo bene di carattere, è una persona amabile, è un ragazzo d'oro. Però vorremmo veramente sfatare quel detto che dice: i bravi ragazzi non vincono mai. Livio, tu che lo conosci, dacci qualche coordinata su questo carattere così particolare. Ma intanto non è vero che vince una volta solo all'anno, perché tipo nel 2012 delle ultime 7 gare ne ha 25, cioè, tutto bene. Quindi è un pilota che quando è a posto. Ovvio, è io... molto forte. Lo scorso anno vinse a Sepang e a Motegi. Quest'anno ha fatto molto più fatica del normale ad adattarsi al nuovo. Ai cambiamenti di quest'anno sono stati sostanzialmente per noi tre, cioè la moto in sé come motore, l'elettronica e le gomme. Le gomme purtroppo lo scorso anno le Michelin per lui erano perfette, nel senso che era detto Prider quello che riusciva a sfruttarle meglio e a cadere meno. L'evoluzione della Michelin è andata, è stata per lui più difficile da digerire. Lui tra l'altro un pilota che fa pochi cambiamenti di solito e quindi ogni volta che cambia fa un po' fatica ad adattare, a riadattarsi alle cose nuove che ha. Non dimentichiamoci che Dani è dittatura veramente piccolina e per lui guidare la MotoGP è veramente un grosso sforzo e probabilmente ha bisogno di equilibri più delicati rispetto a quello di un pilota di stanza più grossa. Certo. Insomma, una serie di motivi per cui lui quest'anno ha fatto più fatica, però Dani è Dani e e sappiamo che uno che ha potenziale da 15 anni che corre nel mondiale tutti gli anni vinto almeno una gara. Si era sentito Livio a inizio stagione che la scelta di questa moto, che poi si è rivelata non azzeccatissima, era stata la scelta di Marquez, e quindi Dani questa cosa l'ha un po' subita. Questo ha creato un po' di frizione tra di loro all'inizio della stagione. Ma no, è normale che quando un pilota fa fatica cerchi di capire il perché, di avere delle motivazioni, no? Una moto. È vero che le abbiamo faticato molto quest'inverno, ma quest'anno comunque la moto ad oggi è competitiva con tre piloti diversi, addirittura ha vinto quattro gare con quattro piloti diversi, ci sarà stata anche e sicuramente un po' di un grosso aiuto da parte del meteo, soprattutto per Jack ad Assen, ma comunque la moto è cresciuta molto davvero e quindi... quando un pilota del calibro di Marquez, di Dani, è in un momento così difficile, è anche abbastanza normale che trovare dei motivi. No? Abbiamo sempre detto, Livio, che per vedere il livello della Honda di quest'anno bisognava vedere Pedrosa dov'era, perché Marquez ci mette del suo per arrivare lì dove è adesso. Ti faccio una domanda scomoda, che però in tanti si fanno. Ha contato di più il fatto che Dani è perfetto per Marquez nel team, o ha contato di più il fatto che può finalmente avere il potenziale di prendersi questo benedetto mondiale nella classe regina, il fatto di averlo confermato come Honda? No, semplicemente... se uno fa un'analisi di quelli che sono i piloti i top rider della MotoGP, non c'è molto. E togli quelli che non sono disponibili perché sono già sotto contratto o per altri motivi, nel senso è chiaro che fare una squadra Jorge Marquez sarebbe stato anche economicamente molto imbarazzante. Certo, però quindi alla fine, che ci piaccia o no, Dani rimane punto Braille della MotoGP, uno dei pochi in grado di vincere tre gare. Adesso quest'anno ne hanno vinto in tanti, però tutti gli anni vincere tre gare sono in pochi e quindi noi l'abbiamo fatto molto contenti. Poi che a questo si sommi che sono due piloti che vanno pure d'accordo, ben venga, perché sicuramente anche per esempio il battibecco di ieri fra Vale e Jorge sicuramente fra Marco. Livio, io ho una domanda per te via SMS. Detto che non avete ancora vinto il mondiale, ovviamente temi in qualche modo il braccino di Marquez? Io credo che la risposta sia no. Secondo me bisogna mettersi d'accordo. Una settimana fa dopo Silverstone si diceva che era tornato il Mark aggressivo, troppo aggressivo, che ha rischiato di far secondo, cioè che per provare a far secondo quando è un comodo terzo ha rischiato e ha fatto quarto. Ieri non è che voleva col braccino, ieri aveva una condizione tecnica che non gli permetteva di spingere senza rischio di cadere, e quindi è stato come al solito quest'anno perfetto a portare a casa il miglior risultato possibile. Ieri era quarto e domenica scorsa, senza il piccolo errore alla fine, sarebbe stato secondo, però insomma non mi sembra che stia facendo ragioniere. No, anzi, Livio, c'è da sperare che magari questi risultati non gli facciano, come diciamo noi, chiudere la vena, cioè non lo irritino a tal punto da non essere più il ragioniere tra virgolette che è quest'anno, perché ha una regolarità pazzesca e quindi che non è un dispregiativo. No, Roberto, il senso è positivo, tutto l'anno che ne parliamo. Il senso positivo, Livio, perché è un pilota irriconoscibile rispetto all'anno scorso. L'unica cosa certa è la manetta. Non è vero, perché appunto domenica scorsa a Silverstone ha fatto il marchio come sono tutti, cioè ci ha provato fino alla fine, quindi però è la prima gara della stagione perché... è la prima gara della stagione dove abbiamo visto un Marquez che conoscevamo, quella di Silverstone. Fino a lì è veramente insomma, stato... a me sembra che anche Mugello a Barcellona era un Marquez aggressivo fino alla fine, ma lui è aggressivo, però rispetto a come era aggressivo prima, come lo conoscevamo, è molto molto maturato, ma in senso positivo, perché è così che si mondiale. Però ti ripeto, io credo che quest'anno più di un'occasione abbia dimostrato che quando sa di potersi prendere dei rischi che per lui sono calcolati, certo, che visti dal di fuori magari sono eccessivi, ma per lui sono calcolati, si riprende. E quando invece sa che se spinge di più rischia di andare per terra, si trattiene. Quindi, infatti, però sono state secondo me più le volte in cui cioè, il limite è veramente sottile, sì, labile, sì, molto sottile, labile. Per esempio anche il venerdì, le cadute che fa, comunque lui ci prova, misura, fa, non è che assolutamente si tira indietro. E abbiamo sempre comunque detto che il mondiale, se sarà suo, è straguadagnatissimo, non, ma si certo, può dire niente. Ma certo, posso chiedere a Roberto, posso chiedere, vai, a Livio Supo di difenderci? Perché c'è un ascoltatore che manda un messaggio: sapete perché i giornalisti italiani sono ganzi? Quando quella manovra la fa Rossi va tutto bene, quando la fanno altri è da punire. Come siete buffi, peccato che non avete le palle per dirlo. Noi abbiamo le palle per dirlo e giriamo la considerazione a Livio Supo, avvocato d'ufficio. Di che manovra si parla? Non ho capito di che manovra stiamo parlando. Sorpasso di Valentino su Lorenzo, in questo caso. Era quello, sì. Sai, alla fine, se uno è tifoso di un pilota o di un altro, vede le cose diverse, questo è normale. Essendoci molti più tifosi di Vale rispetto a qualunque altro pilota, è chiaro che, certo, una cosa Valentino, la maggior parte della gente pensa che sia giusta, è così, ma questo è normale. Ieri Vale ha fatto un sorpasso sicuramente molto deciso, non mi è sembrato un sorpasso troppo aggressivo. Esattamente, cioè, è comunque nella regolarità. Ma ci sta, non è che gli ha tirato una sportellata la mano fuori, poi zero. È chiaro che ci sta che Jorge, che ieri era sicuramente arrabbiato perché ha perso ulteriori punti sia da Marchi che da Vale in una pista di solito era molto forte, e ha fatto una gara un po' opaca. Non è mai stato il grande sconfitto di questa stagione, ragazzi. Sì, assolutamente. Il grande sconfitto. Molto, ragazzi, questo non è ancora finito. Comunque, insomma, un po', diciamo che sicuramente sta vivendo una stagione difficile, degli albi grossi, alti e bassi, e sarà un po' sotto pressione. L'ultima volta che corre qua con la Yamaha, vede la Ducati magari in una pista come questa di nuovo in difficoltà, chissà quante cose c'è in testa anche lui, quindi certo. È facile, questi ragazzi sono facili da criticare dal di fuori, bisognerebbe viverli dentro, certo, e ci si rende conto che anche Jorge, che purtroppo a volte quando apre bocca dice delle cose che alla gente non piacciono, ma nel senso che le dice male, poveretto, non è proprio bravissimo. A volte dismette, l'altro giorno è stato simpaticissimo, che quando gli hanno chiesto, non so se avete visto, all'uscita della pit lane per andare a fare per andare in qualifica, sembrava che stessero litigando lui e Marco, cioè gesticolavano, no? Un giornalista gli ha chiesto cosa si dicevano e lui ha detto: no, niente, ci stavamo mettendo d'accordo per il biscotto di quest'anno. Ed è la prima volta che sento benvenga l'ironia, quello che ti dico, Elivio, è che ieri abbiamo visto anche un Pedrosa Pedrosa gli si poteva dire di tutto tranne che essere aggressivo, invece ieri l'abbiamo visto nei suoi sorpassi, ma questo è in senso positivo perché vuol dire che è della partita e c'è solo da sperare che si sia sbloccato e sia così, sarà così fino alla fine della stagione. Io questo ovviamente me lo auguro per Nani, perché è un pilota a cui non si può non voler bene, e comunque anche lui quando è a posto con la moto, mamma mia, mamma lo scorso anno ad Aragon, non so se vi ricordate, c'è una grande battaglia sempre con Vale, anche lì insomma fu in grado di difendersi con i denti e vinse un duello per il terzo posto. Dani con il suo fisico nella battaglia di quel tipo dove devi cambiare traiettoria di colpo è più svantaggiato rispetto a un pilota più grande, perché ovviamente fa più fatica a lui, può andare velocissimo, si mette la ruota dove vuole mettere lui, ma se deve cambiare di colpo strategia e spostare la moto di più, fa più fatica. Quindi per lui è per quello che si vede meno dei sorpassi cattivi. Ieri però girava strettissimo, penso si vedesse anche in televisione. Mamma mia, in un fazzoletto. Certo. Livio, io ti ringrazio, dobbiamo chiudere il programma, io e Roberto Ungaro, che staremo qui ore a parlare altro con te, e ci sentiamo presto. Livio Supo, in bocca al lupo, team Livio, principal della Honda. Grazie. Abbiamo dunque 5 secondi per Emiliano da Brescia, me li date, ragazzi? Non mi date 5 secondi per Emiliano da Brescia, va bene, lo sentiamo, non era sintetico. lo sentiamo domani. Io ringrazio Roberto Ungaro, grazie The a te, Boys, Carlo, del Moto Mondiale. E un saluto a tutti. Giorgio De Luca, il nostro autore, Alvise Falzone in redazione e Paolo Corleone in regia. Ciao ragazzi, a domani alle 2:00.